Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non lo so, saranno state le gelide notte valdostane o la solitudine nella foresteria aziendale. O forse ancora quel progetto di vita insieme che sembrava non concretizzarsi mai. Fatto sta che a un certo punto inizio a desiderare una prova d'amore totale. C'era un torrente molto piccolo che scorreva sotto la casa in montagna che i miei avevano comprato quando ero un bambino e dove ogni tanto torno ancora. Quel torrente adesso non c'è più, non so perché. Evidentemente si è allargato il letto del fiume Sesia e lo ha inglobato, però era proprio un piccolo affluente che sgorgava dalla montagna e andava verso il Sesia, o verso la Sesia, come lo chiamano i valsesiani. In quel torrente, io e Cristiano, che era un amico con cui giocavamo sempre, avremmo avuto 13 anni, un giorno trovammo una volpe. Morta ma intatta, bellissima, era sotto il letto di questo torrente, sembrava un quadro, cioè la vedevi perfetta con questo pelo biondo. Non avevo mai visto in vita mia una volpe, no, non la lepre, ho detto una lepre, perdonatemi, una volpe. Non avevo mai visto una volpe in vita mia e mi sembrava bellissima. E soprattutto io e Cristiano facemmo un patto: noi non lo diciamo a nessuno che abbiamo visto questa volpe, ce lo teniamo per noi. Non so perché abbiamo deciso di fare così, non c'era nulla di particolarmente figo in quella roba, però semplicemente ci piaceva tenere per noi il fatto che avessimo visto una piccola volpe morta nel torrente. Dopo due giorni eravamo al mini golf, che era il luogo dove andavamo sempre con gli altri ragazzi della compagnia, e scopro che lui l'ha già raccontata a tutti, al punto che qualcuno è già andato a vederla e pare non esserci più. Insomma, viene fuori che la lepre, la storia della lepre la sanno tutti. Quella è stata, credo, la prima volta in cui io mi sono sentito totalmente tradito da una persona. Il tradimento ha sempre a che fare con la fiducia che tu riponi nei confronti di qualcuno. Io mi fidavo del fatto che Cristiano, come me, volesse tenere quel segreto, che, vi ripeto, non so perché noi volessimo tenerlo segreto. Eppure in quel momento io mi sentii tradito. Buongiorno a tutti, sono le 16:10, questa è Radio 24, è il 14 di febbraio del 2013 e noi, come al solito, raccontiamo una storia. Oggi raccontiamo una storia che ha a che fare con questo argomento, con il tradimento. La parola tradimento viene sempre, quasi sempre, però sostanzialmente nel 95% dei casi viene associata a un tradimento di tipo sentimentale. La storia di Enrico racconta non tanto di un tradimento, racconta del modo in cui Enrico lo scopre. Ecco perché oggi vorrei provare a parlare di quella roba lì, del modo, della maniera, della modalità, usate il termine che volete, con cui avete scoperto un tradimento. 349-238-6666, ma anche al telefono 800-24-0024. Vi ripeto, non parliamo solo di tradimenti d'amore, quelli anzi spesso sono i meno interessanti, parliamo di un tradimento generale che ha a che fare con il tradire la fiducia, un tradimento sul lavoro, il tradimento di un amico, appunto, il tradimento di un compagno di squadra. Mi ricordo che una volta incontrai una persona che mi raccontò che giocava in una categoria minore e scoprì che un compagno di squadra scommetteva sulle partite e per lui fu uno dei più grandi tradimenti della sua vita. 800 24 0024, il tradimento di un compagno, ovviamente, di una moglie, di un marito, il tradimento di un figlio, in qualche modo tradisce il proprio padre o la propria madre. 800 24 0024, come lo avete scoperto? In che modo? Ultimamente è molto banale, in realtà sono due i modi: Facebook e gli sms. Se però c'è un altro modo in cui l'avete scoperto, e il modo in cui l'ha scoperto Enrico è un modo molto particolare. Come avete sentito, Enrico ha preferito non partecipare a questa puntata perché semplicemente non c'aveva voglia, ha condiviso il suo racconto, che immagino l'abbia vissuto come una forma liberatoria di un episodio che ancora gli sta a cuore, nonostante sia accaduto diversi anni fa. Però appunto la sua storia oggi noi la raccontiamo come facciamo tutti i giorni sul profilo Facebook del programma, che voi siete qui Radio 24. Intanto già qualcuno scrive come ha scoperto un tradimento. Fabrizio: ero a militare circa 26 anni fa. Il mio competitor, piace per il competitor, poi dice, te lo dico, uso competitor perché sono milanese, evidentemente i milanesi usano il termine competitor. Il mio competitor possedeva una Golf, una Volkswagen. La mia fidanzata di allora, non so quanto ingenuamente, mi spedì una sua fotografia in déshabillé con in mano le chiavi di una Volkswagen. feci solo 2 più 2. 800240024. Gianluigi, un amico, mi portò a bere una birra e mi tolse il paraocchi. Quella sera le parole picchiarono alla bocca dello stomaco con una durezza che mai avrei immaginato. E poi ci sono le donne che semplicemente rispondono nel modo più semplice, che l'ho capito a naso. 800240024. Voglio rispondere subito a un messaggio che è arrivato addirittura prima della diretta. Credo ci fosse ancora in onda Gegè Telesforo, perché erano le 15.58, al 349-238-6666, che dice: ciao Matteo, sono al lavoro e con i miei colleghi siamo ansiosi di ascoltare una bella storia rilassante e magari divertente del venerdì. Niente, ormai c'è questa roba per cui il venerdì dobbiamo solo cazzeggiare. Facci ridere, come no? Sono qua apposta, Fabio, per farvi ridere. Fabio and Company scrive: Fabio, guarda, tu mettiti comodo e ascoltati la storia di Enrico. Non è proprio una storia, diciamo, divertente, ok? Parla di un tradimento, parla del modo in cui scopre il tradimento. Fabio, se hai voglia di raccontarmi anche tu un modo in cui hai scoperto un tradimento, 800240024. Oggi sentiamo la voce degli ascoltatori in diretta, ogni tanto apriamo i microfoni e oggi lo rifacciamo. 800240024, il modo in cui avete scoperto che eravate stati traditi. Ripeto, non solo in amore, ma vale tutto: lavoro, amicizia, sport. Tenetevi forte però, perché questa è la storia di Enrico. Era l'inverno tra il 2000 e il 2001 e io, nato e vissuto a Roma dalla nascita, mi trovavo per lavoro ad Aosta, dove l'azienda che mi aveva assunto subito dopo la laurea mi aveva spedito come tecnico nei cantieri dell'ultimo tratto autostradale per il Monte Bianco. A Roma c'era Anna, anche lei laureata a Roma e al primo impiego in una banca. 10 anni insieme ci avevano reso una cosa sola. Ora il lavoro mi aveva portato per un po' lontano, ma a Roma c'era un progetto di vita, c'era un piccolo appartamento comprato con un mutuo e con l'aiuto dei genitori che ci aspettava. Non lo so, saranno state le gelide notti invernali valdostane o la solitudine nella foresteria aziendale dove la sera non sapevo veramente come ammazzare il tempo. O forse ancora quel progetto di vita insieme che sembrava non concretizzarsi mai. Fatto sta che a un certo punto inizio a desiderare una prova d'amore totale, che in quel momento mi avrebbe dato la certezza di non essere stato mai tradito da Anna nei 10 anni trascorsi insieme. Siamo nel 2000 e io, appassionato di tecnologia, inventai qualcosa di molto simile a quello che attualmente viene definito phishing. Scrissi, dopo aver registrato un indirizzo email ad hoc, un questionario, spacciandomi per la redazione di una serie televisiva americana di successo, Sex and the City. Tra le domande, naturalmente, quella chiave e unica di mio interesse, camuffata tra altre 10 o 15, del tutto insignificanti, diceva così: hai mai tradito il tuo attuale partner? Poi, senza pensarci tanto, schiacciai il tasto invio. La sensazione di avere fatto qualcosa che poteva cambiare la mia vita la ebbi al ritorno dal lavoro il giorno successivo, anche se non avevo alcuna certezza che Anna avrebbe abboccato. Nel momento in cui, sedutomi alla scrivania tutto infreddolito, senza nemmeno togliermi la giacca, iniziai ad accedere all'account email fasullo creato il giorno precedente. E questa sensazione crebbe di intensità nel momento in cui mi resi conto di avere ricevuto risposta. Bene, siamo qui, siamo al momento della verità. Ero stato io a cercarla, ma in quel momento però avvertivo la paura. Di che cosa poi? Semplicemente del fatto che in un secondo potessero andare in frantumi 10 anni di vita crollandomi addosso. Ma ormai non potevo più tornare indietro. La verità era un passo. L'email e poi scorro tutte le domande inutili fino a quella fatidica. E in quel preciso momento rimasi impietrito. Un dolore indescrivibile. Sentii come se qualcuno avesse ucciso una parte di me. Poi, la parte che era rimasta, cominciò a vagare confusamente per la casa. Il dolore era talmente grosso da sperare ancora che non fosse vero. Chi lo sa, magari Anna l'ha fatto per atteggiarsi, pensai. Ma non reggeva, lei era troppo bella, troppo sicura, troppo cosciente per avere bisogno di atteggiarsi rispondendo a un questionario. Allora, forse adesso quando la chiamo al telefono, lei mi dice: «Ciao amore, perché mi mandi delle email taroccate?» Non mi ricordo quanto tempo passò prima delle telefonate in cui gli dissi che ero io l'autore del messaggio. Forse un'ora. E anche a lei crollò il mondo addosso, perché entrambi capimmo subito che niente sarebbe stato più come prima. Lei tentò per mesi invano di convincermi che non fosse vero, ed io mi lasciavo convincere perché era quello che mi serviva, ovviamente. In questa fase ci amammo con una passione che forse non avevamo mai conosciuto. Da una parte c'ero io, che nei momenti di passione pensavo, anche se è stata con un altro, non può avere mai provato quello che sta provando con me, e quindi la sentivo ancora più mia. Dall'altra parte c'era Anna, che forse nei momenti di passione si illudeva che tutto avrebbe potuto continuare come prima. Ma a questi momenti si alternavano altri momenti in cui io ritornavo alla ricerca della verità ed il mondo mi crollava addosso. Poi, dopo diversi mesi, Anna si convinse a confessarmi il tradimento, forse illudendosi che quella dimostrazione di fiducia sarebbe servita a ricucire il nostro rapporto. E allora iniziò una nuova fase, quella che ci avrebbe portato alla fine della nostra storia. Infatti io non mi accontentai della confessione del tradimento, ma iniziai a chiedere come quel tradimento si fosse materializzato, che sensazioni avesse portato prima, durante e dopo. Chiaramente mi faceva male, ma non potevo evitare di farlo. Iniziai piano piano ad allontanarmi perché tutto quello che mi circondava in un modo o nell'altro mi riportava al dolore. Luoghi, persone, sensazioni. Per me l'allontanamento era un modo per sopravvivere e ricrearmi una vita. Nel giro di 6 mesi cambiai città, lavoro, cancellai tutto. Mi allontanai perfino dalla mia famiglia, con la quale, rimanendo vicino, avrei dovuto comunque confrontarmi e in qualche modo rendere conto di cambiamenti così repentini. Oggi, a distanza di 12 anni, mi ritrovo a vivere in una città del nord, fredda e umida, nella quale ero fuggito per scappare da tutto e da tutti. Una cultura diversa, un clima diverso, abitudini diverse e la sensazione di essere sempre un ospite. Ma questa è anche un po' la vita. E poi ho un sogno nel cassetto, riuscire a tornare a vivere nella mia città. Questa nuova vita mi ha portato anche un figlio fantastico, che amo e al quale auguro che la vita regali anche una storia come quella che ho vissuto io, perché comunque ne è valsa la pena. Zero zero ventiquattro per chiamare in diretta. Voi siete qui, ogni tanto lo facciamo, apriamo i microfoni per cercare di sentire le storie direttamente dalla vostra viva voce e non semplicemente dalla mia. Il metodo, il modo in cui avete scoperto di essere stati traditi, non, ripeto, non solo in amore, in qualunque campo, in, sul lavoro, con un vostro amico. 800240024. Avevo 23 anni. Mi scrive Alice da Torino e scoprì che mi tradiva da 2 anni. Sentiamo direttamente la storia da lei. Pronto, Alice? Pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene. Sono dai carabinieri, devo far denuncia, devo far veloce perché mi aspettano di là. Scusami, che denuncia devi fare dai carabinieri? Perché ho scoperto che c'è un sito internet che ha tutti i dati dei nostri morti di Torino e ne fa business sopra. Allora devo far denuncia per cercare di far cancellare i dati di mia nonna da questo sito. Ma scusa, come l'hai scoperto? In realtà l'ha scoperto mio fratello, perché un amico ha scoperto che sua mamma era su un sito e ci ho trovato anche mia nonna. Senti, non ci ho capito niente, però me lo dici, si può dire il nome di questo sito oppure? È una roba tipo inmemoria.com. Vabbè. No, giusto per evitare, vado a vedere se c'è mia nonna magari. Sì, così vai poi controllare anche tu, perché ci fanno business sopra. Non ho capito come fanno a farci business però, scusami. Praticamente praticamente giocano sul fatto, parla con i tuoi morti, c'è lo psicologo che ti assiste. Ah, ok, dei cialtroni veri. Okay. Quelle cose qua. Va bene, però insomma è una forma di tradimento anche questa, effettivamente, della fiducia e della memoria anche dei propri cari. Però tu avevi 23 anni e lo amavi da morire da tre, ci dici? Sì, ero innamoratissima, adesso sono 36, quindi diciamo posso parlarne senza tanto magone in gola. Ero innamoratissima e niente, l'ho scoperto per puro caso, perché io ero amica della cugina della sua amante, diciamo così. E allora lei, pensando che naturalmente lui mi avesse lasciato, perché così diceva, mi venne a dire: ah, ma meno male, è finita tra voi, guarda, quel disgraziato pensa che è venuto l'altro giorno tutto a scusarsi, perché era un po' che non si faceva sentire, gli ha regalato dei pantaloni proprio uguali ai tuoi, no? Ai tuoi che, scusami, a quelli che avevo addosso in quel momento. Ah, ok. Questo però devo dire, spesso è semplicemente, adesso non lo voglio difendere, però è proprio scarsa fantasia degli uomini, non è che voleva renderti come lei, Alice. Ma sì, sì, per amor di Dio, però il fatto Oddio, cosa che le prendo, cosa le prendo, cosa le prendo? 2+2. Quei jeans, che è perfetto, quei jeans sono perfetti. Vabbè, insomma, hai fatto 2+2 e ne sei uscita, adesso... Che altro quando mi ha detto dei pantaloni ho detto: ma scusa, dove è venuto? E poi ho ricollegato che proprio quel giorno mi aveva chiamato, mi fa: Alice, ho bisogno della tua macchina per andare di corsa a Milano per lavoro. E invece, era andato a prendere, a portare il regalo a lei. Con la tua macchina? Sì, con la mia macchina. Che fine ha fatto questo ragazzo? L'hai più sentito? Lo odi? Sì, è tuttora un mio paziente, penso un po'. Beh, che lavoro fai, perdono, Alice, scusami? Perdono, faccio l'igienista dentale. Ah, ok. Quindi gli metti le mani in bocca? Sì, gli faccio anche male volontariamente, okay. Lui lo sa. Alice, ti ringrazio, ti lascio andare a denunciare questi disgraziati. Ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo a Milano da Francesco. Pronto, Francesco? Sì, ciao. Come stai? Ciao, Matteo. Bene. Dove ti trovi? Senti, in macchina. Tu sei quello che è stato scoperto? Io sì. E in che modo? Beh, nel modo più banale, nel modo più comune, nel modo più stupido, tecnologia, iPad. Cioè l'hai lasciato da qualche parte, non aveva le chiavi d'accesso? Sì, l'ho lasciato sul comodino. Ma cosa c'era dentro però, scusami? Ma niente, del mail di una persona con la quale io ho avuto una relazione di nessun rilievo, di nessuna importanza, come capita spesso... Devo dire purtroppo a noi uomini, e per me ha voluto dire mettere in discussione, anzi... Sei ancora un po' sotto un treno, Francesco, Sì, sì, sì. Ma è successo di recente? Ma no, un anno e mezzo fa, però sto parlando di mia moglie, 12 anni insieme, straordinari, bellissimi. Ma adesso a che punto siete, scusami? Ma non lo so, nel senso che... Ci vediamo ancora, passiamo anche delle giornate molto belle insieme, siamo legati da tante cose, però lei per il momento è complicato. È complicato. Francesco, ti ringrazio comunque per la telefonata, ti faccio in bocca al lupo. Grazie. Buona giornata, ciao, grazie a te. Ciao. Marco mi scrive: da un fornitore della mia azienda vengo a sapere che il mio socio ha intenzione di mollare tutto. Brutto questo. Ma è vero che il tuo socio... Ma ho sentito che vuole mollare tutto. Ce l'abbiamo un'altra telefonata. Massimo da Milano. Pronto, Massimo? Sì, pronto. Buongiorno, come stai? Bene. Non parliamo di sentimenti in questo caso, giusto? Scusa? Non parliamo di tradimento di sentimentale. No, parliamo di tradimento sul lavoro tra due fratelli. E com'è andata? Mio padre e mio zio. Cioè? Praticamente nel settembre del 99 io sono stato vittima di un incidente sul lavoro. Sì. E ho perso la gamba sinistra. Di che lavoro si trattava? Di che lavoro si tratta? Io facevo traslochi. Ok. Era un trasloco industriale, quindi movimentazione di macchine pesanti. Sì. E sono stato schiacciato contro il muro da un muletto. Aia. Diciamo che grazie a quell'incidente sono venuto a scoprire diverse cose da parte di mio zio, e quindi devo ringraziare quell'incidente, perché sennò... Mi dici cosa hai scoperto, Massimo, scusami. Allora, praticamente ho scoperto che mio zio era 2 anni dal 97 praticamente, che stava truffando mio padre e quindi anche il sottoscritto, perché nell'ambito del lavoro traslochi ci sono... spesso lavori in nero o altre, quindi questi soldini qua se ne imboscava lui. Ah, ok, quindi... ok, proprio questioni proprio banali, che metteva dei soldi in tasca che non, che non li condivideva. Cosa, io... dimmi. Cosa fai adesso, Massimo, nella vita? Io adesso sono da 3 anni che sono in un ufficio tecnico di un'azienda che costruisce tubi d'acciaio. Ho sempre lavorato prima in proprio, facevo il traslocatore. Ok. E quindi niente, hai cambiato la lavoro. La ditta di conseguenza è andata a farsi benedire. È stata chiusa, ok. Sì, è stata chiusa. Diciamo la persona che manca di più è mio padre, perché ai 56 anni si era fatto una, no. Una, insomma, la sua vita era anche soprattutto quello. Massimo, purtroppo ti devo salutare, che dobbiamo chiudere. Ti ringrazio anche quelli che hanno chiamato, non abbiamo potuto sentire. Ringrazio chi ha scritto: furbi con la Golf non ce ne sono, non so perché. Grazie a Fabio Cantadori, grazie a Margherita Ina, grazie a Tiziano Bonini, grazie soprattutto a Enrico. La storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa.